segnale, lasciamo perdere il segnale, però riguardo diciamo la modulazione con l'effetto eco, diciamo che la modulazione diciamo non è, diciamo che è frastornata, non è chiara, non è chiara. Gigino magari ti ascolta, è più vicino, magari ti ascolta con l'apparato, tu già lo sai con che cosa ti sta ascoltando, c'è da valutare pure che da apparato magari cambia, e insomma ci sono tante valutazioni da fare. Questa questione quando per dire vengono fuori sono qualcuno che semplicemente frequenza anche dica la sua, questo è sempre esistito, Gigi, è sempre esisterà. Ancora molti non hanno capito che cosa vuol dire la 27, quindi lasciamo rifare, tutto lì. Ok, Gigi, ti rilancio a te, mi dici come mi stai ascoltando. Va bene, quando c'è qualcosa che non va, io sai che te lo dico subito, ti dico ti sento saturo, ti sento basso, ti sento così, no, adesso stai andando bene, benissimo, sa, va bene, per me è tutto caparroccia, l'ho capito, e niente, dai, Clavier, riprendi tu, no, mi si gira un po' le scatole a me a volte, Claudia, e purtroppo sono fatto così, dai. Allora, io non commento neanche, Gigi, non commento neanche perché non mi interessa, non voglio più cadere nel tranello di quello che ho già parlato con persone che hanno capito la mia lezione di vita nei confronti degli altri è finita e quindi penso a me, mi diverto e non me ne frega più niente di nessuno. Tutto qua, ognuno è libero di esprimersi come e quando vuole e io faccio le orecchie a Marcante, Gigi. Però è certo che come hai detto tu mi dà fastidio perché noi siamo qua più sul canale 45, siamo 5 canali oltre quelli normali, no, non abbiamo scatola nessuno. Se qualcuno ha qualcosa da dire va bene lo stesso, no, non ci stanno problemi. Ok, dai, Antonio Falchetto Hotel, microfono Sandro, sì, Santiago 9, più Radio Super 5, senza problemi, vai Falchetto. Voglio dire qualcosa io, già mi state sulle palle che siete mezzo sassarese. Pure uno come me che viene dal nord Italia e sente ste riuscite di Antonio Grosso, buonasera. E ascolta a me, Primo La Rossa, Daniele Primo La Rossa, aspetta che gli faccio una cosa. tutto ti sta salutando 7351, dai. Non so se arrivo in quelle coordinate, Daniele. Daniele, hai ascoltato il puro sangue Antonio Falchetto? Devo essere sincero, l'ho ascoltato quantissimo, i passaggi sono stati proprio alquanto bassi, a te ti ascolto bene, a te ti ascolto bene, lui è negativo, mi dispiace, forse l'antenna di Gigi Vulcano che non funziona. Gigi, guarda l'offesa, Gigino. Ciao Massimino, buongiorno, per me sei duro, Massimo Bulldozer, ascolti Primo da Roma. Vabbè, Primola, così basso ti arrivo lì, mi sembra strana a me la cosa, Sì, positivo, non c'è problema, perché, Antonio, buonasera, per me sono duro qua. C'ho il vento che mi sta soffiando nelle orecchie, ma adesso mi sento buono, cambio. Positivo, Va bene che va bene, dai, rilanciamo come se vogliamo Bulldozer, vai, la sera. Ciao Daniele, Primo La Rosa, dai, buonasera, ben riascoltato dopo 3 settimane di festa, dai, buonasera Daniele. Ehi, cos'è questo innesco, cambio? Dove stai, Primo La Rosa? Buonasera, avanti per te l'antenna, bacio. Massimino, noi siamo qua in direzione costruttore, sei capisci, frate, andiamo per fare l'imbarco in direzione Genova, chiamiamo Luca Luca, ci portiamo fino a Milano, poi ce ne andiamo a trovare la nostra figlia a Biella, capo! Io non so, sto barrettino come cazzo funziona male, No, il baracchino funziona bene, forse la voce che vuole cambiata, capite? Minchia, scelta la giornata giusta per piacere, vento, vento, mare bello. Oh, stanotte ti fai una bella balletto, capito? Ti fai un falso sulla nave, capo. Allora te la fai una montata, Daniele, stanotte scoppi e che c'è a fianco per vedere la figlia, cioè che c'è la tua metà a fianco di te, la saluto cordialmente, capito Daniele? Sì, non c'è la mia doccia metà, è rimasta a casa, sono da solo, capito, c'è il mio collega dietro. Praticamente siamo lui e col Milico, io con la mia motricetta, capito? Il frigorifero volante, capito? Sì, sì. Anzi, con l'occasione vieni là, così vedi la mia barra nuova, cavola. Allora, pensavo che c'era anche lì, dai, che stava venendo anche lì per la figlia, dai. Pensavo che non eri solo, che c'era che eri in compagnia, dai, perché di solito quando vai in compagnia tu. Sì, io ti dico, devo caricare mercoledì all'Ecco, capito? Mandello Bellario, della mia roba che mi serve. E visto che sto andando a Valzaghello, vicino all'Alto Pozzolo, mi sono caricato un po' di melone, un po' di anguri, un po' di pesci per mia figlia, capo. Scusa, io che uscita devo fare qua per stugasse molto vecchio, manco le cani. Sembra che devi andare tu al Moro Alzi a fare il biglietto, no, ci siamo in te, così è Claudio, e sai che devi andare al Moro Alzi, dove ci siamo visti una volta, lì devi andare a fare il biglietto, e poi devi andare e tornare indietro da lì, già ti porta veramente al porto Norvig, il nuovo che hanno fatto, capito, al porto, verso il porto dove devi andare dopo, dal porto industriale. Aspetta, io adesso sto qua in direzione porta, sono a 4 corsie, porta a torre, sai. Però non ho capito se devi venire dove dalla sole mar devo andare, perché ho già prenotato la sole mar. Questo ce l'hai già? No, ho già telefonato lì e ho prenotato. Sarei dentro il Moro Alzi, ti ricordo che ti avevo trovato il giorno che stavo imbarcando? Mi pare che il biglietto si fa lì, mi sempre, Daniele. A me non è che cazzo ne so, ma mi Cassano Maro sta trattando lì al Molo Industriale, a Monoasi, lì dove c'è la biglietteria, almeno in questi giorni perché c'erano un giorno di vento. Se poi diciamo sta trattando lì a al Molo Nuovo, questo non lo so, comunque questi due giorni di vento stava trattando al Molo Asi. Ok, signori, io ne approfitto, vi saluto circolarmente tutti quanti, Gigino, Massimo, Fattetto, Claudio, e saluto anche l'amico qua Barriere che è qua in coordinate Paolo Torres. Ok, ripeti Gigi, qua Bartolino, correti. Ciao, Sabro, dai, fate un buon prodigo della serata. Dani, passa a chiedere, entri in chiedi, già c'è, già, tutte le strade portano a Paolo Torres. Attacco dopo, capito? Ci sei, tu guarda che c'è scritto in CP in ballare. si assomiglia alla, la modulazione si assomiglia a cosa? Come cavolo si chiama Gigi quando il pullman porta il bacino? Siamo, la modulazione si assomiglia un po'. Lui sarebbe voluto come Peppe a bacino, lui la modulazione. Lascia perdere che è tutta diversa Peppe a bacino da lui. Si sarebbe voluto la modulazione di Peppe a bacino. Chissà pure avrebbe voluto di Peppe a bacino. Dice, ma che scambi, non me lo con loro, porco Dio. Ma la prossima volta mi taglio i baffi, Vedrai al prossimo anno quando faremo il raduno mi taglio i baffi, così la cosa è più positiva, Daniel. Sì, ti dico, là, che qua ci hai picchiato sarà, capito? Non so dove sei, non ti dico nulla, ma vedi tu dove stai andando. Ma culo, ci va, mi ha preso di mezzo, ma se non ti sta... Non lo so, Daniel, che lo so, se ti dico a destra o a sinistra, sono messi qui e ti faccio sbagliare. Vedi un po', guarda l'indicazione, vai al muro industriale, già lo sai, dov'è il muro industriale. Dritto, vai sempre dritto, tu dove vedi il cartello di Ceppotto, tu segui. Isola che lì è al muro Asia, allora, come diceva Sandro, che il vento dall'altra parte entra da lì, vai lì, tranquillo. Ma non mi dici che sei lì, è qua, sì. Mentre a sinistra, ci sono tutte le biglietterie, guarda, chiedi lì. Ma tu abiti a Porto Torre, o sei un caghiere di disastri? No, io sono un caghiere di ottava, capito, sono... Attenzione, già non conti nulla quando sia Villa Cidro che passo lì, figurati se conti qualcosa quando vieni qua. Ti piacerebbe. Già che me lo vado a posto, ma che vado a fare un biglietto. Dove cazzo è, cos'è questa qua? Non mi chiedete solo cos'è questa qua, dove c'è? C'è anche il bar, c'è tutto lì a sinistra, entra e chiedi lì. Quelle sono tutte le biglietterie. Posso dire una cosa di Sandro, Gigi, ragazzi? bene bene. Ma riprendi Claudio, fa girare per Gigino e Massimiliano, vai. Massimiliano, falli sentire il mobile con un falchetto a quello è nostro. Falchetto, l'ho già sentito prima di voi il mobile con. Te l'ho fatto sentire stamattina tutto Roger. Claudio, senti adesso questa radio di Massimiliano come gira da... come è diversa da ieri, dalla macchina con quell'antenna come è diversa? Ciao, sono compa, io... quando dico le cose sono sempre io. È una bomba, se tu non mi dicevi non avevo proprio modulatore, vuole andare io manco per le palle, ci sarei mai arrivato. È una bomba, il mio non girava così, senza doppio modulatore. Questo è proprio una spuma forte, grossa, vabbè, ma ci vediamo, la fa girare bene. È bella. Sì, c'è una differenza di timbrica per la macchina a casa, però anche la macchina gira bene. A casa è una saetta, ma ci vediamo, ma è proprio, come ha detto Antonio Rove, non ti faccia la leggi, però è forte, bella grossa, forte, com'è, sembra quella dell'Asia, non come piace a me, capito mi hai? Ciao ragazzi, ma adesso abbiamo trasmettato anche quell'antenino piccolo e ci sa che siamo riusciti a farlo arrivare a 1,3 attaccato 250 watt. Ma lo devi sentire dopo che esco, se sia con il radio te la faccio sentire. Dai. Abbiamo trasmettato quell'antenino da 90 centimetri, tutto rosso. Positivo. Va bene, Daniele, Claudio, lui nel furgone c'era quello nero grande e lo pilota a 12 sul furgone, decimo, ma c'è il porto veramente di Daniele quando attacca quello lì. Ehi, ma quello rimane un po' buon attare, 1002, io posso andare bene anche adesso, però non ho già fatto le prove, io Mario, a 12 volte ma col pelo di colica. Da meno di questo li sto usando io, capito? Mentre invece a 24 ne da 750. Però come ti ho già detto, come mi ha spiegato Massimiliano, ci vuole un adattatore, cioè da 12 a 24 voci per farlo andare bene come deve andare. Cazzo, per avere 200 watt preferisco forma proprio l'impurità della valvola, capito? Adesso è bella lucida, lucida, però non è la sua la valvola, è ancora più grossa di quella che è molto originale. Cavallero, e quella dovrebbe essere la 519. Praticamente quella che monta il giungo Aristocrat, e quindi è una valvola che dà ancora più latte, perché la 509 dà 100 watt e la 519 dà 120, questa arriva anche a 150 watt modulati. Ma io quanto ti faccio un regalo a Natale, aiuto, ma metri e vedi come pompa di più. Tu da quello a 10 watt o a 15 che lo metti a 3 watt e va molto di più quello lì, capito? E bisogna, Roberto deve prendere in mano, il re dei baracchini e gli apparati a Roberto. Io lo però 3 watt così è circa quello che c'è in camion e non lo tocco mai, così e modulo sempre. Ho fatto segno col pennarello, un puntino bianco gli ho fatto io, adesso che va lasciato lì, mi ho fatto i puntini bianchi io per non spostare, capito? E lo tengo sempre fisso lì. Positivo. K di Rogero, vabbè, quando sarà il momento, vediamo di come si dice, di organizzare meglio, dai. Tanto io ce lo farei un pensierino, farei un pensierino su quello 87, capito? Non ci stanno problemi. Quando poi vuoi modulare tranquillo e sereno, come facciamo tutti, io, Gigi, Massimo, eccetera, possiamo modulare tranquilli, mettiamo un bel microfono, passiamo l'MB più 4 al Bubico, ti faccio le connessioni nuove, lo portiamo da Gavino, le facciamo mettere la connessione a 4, anziché quel cazzo di spinotto che c'hai, senza adattatore, senza niente. Si sistema tutto e l'87 lo fai modificare. Poi non ti preoccupare per non ti preoccupare, tu quando decidi di fare la modifica a me mi devi solo avvisare. Passiamo alla radio a Gigino, si fa la modifica leggera senza andare molto in alto col prezzo e lo adeguiamo ai modulatori puro sangue, capito mi hai? Non ci stanno problemi su quello, Frati. Non ci stanno problemi. Adesso vediamo. E l'importante è che abbia un apparato per poter modulare, diciamo, momentaneamente. Il mobico ce l'ho, ma non è che spinga più di tanto, ma comunque. Va bene che va bene. Quando sarà lo porteremo lì al dottore, dai. Questo berichino, vediamo un po' cosa si può fare, dai. Per modulare, ma senza di quello non ti devi preoccupare, capito? Vieni qua e te ne prendi una, non ci sono problemi. Tanto tu quando decidi, io Claudio le fai un colpo e le dici ok, ho deciso, si porta dal medico e poi non ti devi preoccupare di niente, non ti devi preoccupare di niente. Quello 87 deve spingere da lì, capito mi hai? Deve spingere come Dio comanda. Va bene, dai. Va bene che va bene, zio Claudi, tutto Roger, non ci sono problemi. No, non avere problemi tu, zio Claudio, i problemi non ce ne stanno, capito? Quando dobbiamo fare le cose le facciamo in casa, non dobbiamo andare a chiedere permesso a nessuno, vero di Giuca? Dico che a Rogero, Claudio, no, non ce ne stanno problemi, dai. Ma io gli ho sempre detto al palchetto per fare, però deve avere. Vabbè, ma lui già un apparato fatto già spinge più di quello, spinge già più di fare dei lavoretti. Roberto già spinge di più quella radio lì, spinge già molto di più con meno watt, attenzione, Falchè. La radio diventa più penetrante, più forte e con meno watt, perché funziona così. Purtroppo questa radio una volta li metti fai il lavoretto e tu immaginati che un'ara 48 che da 4 watt e mezzo riesce a farla arrivare, se tu ha 6 watt, quello di che c'ha Claudietta arriva a 27 watt, ti picchi quello che c'ha Claudio, e questo è lo stesso, capito? Dove ho trovato una 48 che riesce a farla salire a 27 watt, ma manco per idea, ci vuole mano buona, capisci? Ho capito, ma questo è Verginello, Gigi, questo è Verginello, bisogna che lo sta dicendo, da Roberto deve portare, se no in Sardegna non ce ne sono altri dottori, diciamo, per fare questo tipo di modifiche, noi parliamo questo tipo di modifiche, capito, non di fare il tipo di riparazione, ecco, tipo di modifiche, ce ne sono, Roberto. È positivo, mi state convincendo, Anto, non ci sono problemi, capito, tu devi avere la certezza e mi devi dire ok, poi per il resto non ti devi preoccupare, non avere nessun problema, ti ho detto che il Mobicon ce l'hai, le facciamo l'adattamento all'MB+4 e quindi puoi tranquillamente modulare, capito, perché lo portiamo a Garrino e lo facciamo fare come si deve, senza sbagli e senza niente, lo mettiamo un connettore a 4, così puoi usare tranquillamente l'MB+4 che va bene alla grande, e nel frattempo Garrino si tiene il Mobicon per fare questa cosa qua, tu vieni qua e ti porti via una radio, non ce ne saranno problemi, non ci sta nessun problema, capito, mi hai? Quando decidi mi fai ufficio, io mi metto d'accordo con Gigi o Massimiliano, non ci sono problemi. Lo mandiamo dal medico giusto, le misura la pressione, tu vedrai e te lo ritorna che lui o una camionata, o una camionata. Ahia, ma le devo portare, tutte e due te devo portare, Claudio. Allora, il lano 87 lo diamo a Gigino e lo fa operare, mentre il Mobico andiamo da Gavino, diamo su io lo devo andare, le facciamo fare la connessione all'MB+4, capito? Senza però quel cazzo di adattatore che c'hai, la connessione diretta, facciamo togliere la sua cosa lì, quello spinotto che c'hai, le facciamo mettere maschio e femmina a 4. E marrà anche io, Garrino, tu non ti devi preoccupare di niente. E usi il Mobicon con l'MB+4 in attesa che arrivi l'anno 87. Poi quando arriva l'anno 87 tu usi quello lì. Quando vuoi parlare senza eco, allora usi il Mobicon, capito? Caparoggia, tutto copiato al 101%, dai, sempre gentile come sempre, Claudio. Oh, puoi fare una cosa, scusa Claudio, posso fare anche altro, perché se non vuoi l'eco, tu basta che fai così, no? E l'eco non ce l'hai, anche nell'87, tu fai così e l'eco non ce l'hai, vedi, c'è la radio lo stesso. Sì, come piace anche l'eco, dai. Diciamoci la verità che piace anche l'eco, non quell'eco proprio, però è bello, leggero, è bello. Senti, ma adesso vedi, è sempre 48 senza eco, l'ho chiuso l'eco io qua. È positivo, dai, positivo, non ci stanno problemi, dai. Quando faccio l'ambassa, carissimo Claudietto, dai. E vi mando i due baracchini a operare sperando sempre che sia una cosa positiva, io mi fido di voi. L'87 è come l'81, c'ho il camion io, capito, e non penso che, non lo so, se a te ti piacciono gli apparati che c'ho io, qualche che uso il camion che c'ha Massimiliano, lascia perdere questo non l'ha fatto Roberto, però quello che c'ho in camion l'ha fatto Roberto e quello che c'ha Massimiliano l'ha fatto Roberto, capito? Poi se Roberto prende in mano quello di Claudio, perché gli fa lui li fa tipo quelli di Claudio, il 40 che c'ha Claudio, perché lui fa tutto tipo lumacone Roberto, tipo come quello che c'ha Claudio, perché poi li fa così. Infatti adesso quello di Gianni, quando ha avuto problemi ultimamente, gliel'ho portato io da me Gianni e l'ho portato da Roberto, capito? L'ho portato da Roberto perché c'aveva l'eco tipo questo che c'ha adesso Claudio, e gliel'ha fatto tipo questo che ho io adesso qua Roberto, e più c'era un problema, non so di che cosa, l'ha detto, mandare in Sicilia e gliel'ha fatto Roberto, gliel'ha sistemato Roberto a Gianna Voltoio, capito? Perché lui li fa tipo questi del lumaccone, capito? Se tu guardi quello di Massimiliano lo apri, e lo apri, ci ha messo un altro finale, anche tu ce l'hai, mi se lo controlli, c'è un altro finale in più, non ce n'è uno finale, ce ne sono due, questi apparati ne hanno due finali, se tu guardi sopra c'è un condensatore con un altro finale, attaccato, se tu guardi la parte di dietro, il coperchio di dietro c'è sopra, attaccato, c'è un finale in più, che pilota, non so quel cazzo faccia per dare tutta questa spinta, questa cosa di fatti, c'è un altro finale ancora, ce ne sono due finali, c'è un altro aggiuntivo di finale, Claudia. Ah, ecco, allora, dicevo che sono finale di scorta, va, Ita Radio, e invece è quello lì, e poi ho notato che c'è il finale leggermente più grande, non so il perché, non me lo ricordavo, io l'ho aperto quando l'ho riattivato per vedere se era tutto a posto, e praticamente mi sono accorto di questa cosa qua, capito, Gigi? No, ma rulla bene questo lumaccone, rulla bene. Non ti preoccupare, ancora l'anno 87 è come l'8001, sono uguali, non c'è problema, quindi esce come quello lì che c'ha Gigino, vai, una cosa del genere. Poi se tu lo vuoi disinserire, leggolo, disinserisci. Quando siamo sul canale 45 lo lasci stare a tutta birra e vamos alla playa e ne buttiamo il topo dalla trave. Positivo, positivo, caparoggio, già va bene. Per microfono ti fai l'attacco così, l'hai l'87 tu come ce l'hai, tipo il 48, l'attacco del microfono, o ce l'hai il contrario del 48, o qualche? Quattro punte, però non so come siano gli attacchi, quattro punte, però bisogna vedere se l'attacco è il contrario, penso che sia il contrario. Allora noi lo facciamo fare tutta all'indirizzo. Tu il microfono gli attacchi direttamente o gli c'è l'adattatore lì? No, questo dell'87 lo attacco direttamente con quattro punte. Invece al Mobicon dovrebbero essere 5 punte, penso, più o meno. Quando io ti ho portato quel microfono da, come si chiama, da Marrubio, tu l'hai messo direttamente, funzionava o ho dovuto invertire qualcosa? Se l'ho baderato ho dovuto invertire. Ah, ecco, ho dovuto invertire. Invece adesso noi quando lo mandiamo mettiamo tutto all'indirizzo giusto come il 48 e il mobico da Gavino Drovaivani come il 48, capito Claudio? E così lui non sa tanti adattatori, cambia qua, inverti e fai, lo mettiamo tipo come la 48 adesso, così lo faccio, tanto glielo faccio cambiare da Roberto, io glielo faccio mettere così, capito? Così tu, tanto il microfono quando dipende sono già, e così lui può adoperare sia su quello, sul mobico e anche su quello, hai capito? Perché tu metti quello da tavola come facevo io e vedi che radio che ti fa, togli l'eco e lo lasci senza eco e vedi che radio che ti fa col microfono da tavola. Positivo. Se devi mettere l'eco devi togliere il microfono a tavola, allora tu te ne metti, se c'è un commutatore d'antenna te ne metti due vicino, il mobico con il microfono a tavola e parli così, quando vuoi parlare sul 45 con l'eco accendi l'altro e metti l'eco, poi puoi parlare col microfono normale che ti fa una radio più o meno così, vedi, una radio così, e parli con l'87 la stessa cosa, senza, se non vuoi attaccare il mobico, capito? E parli così col microfono normale. Positivo. Vai, Antonio, facciamo un bel lavoro, vai. Non ti preoccupare, il mobico lo possiamo già portare da Gavino, se non lo stai usando, capito? Così ce l'abbiamo già pronto. Se domani sera mi libero presto, ti chiamo e prendi il mobico con l'MP più 4, il microfono normale suo, e passiamo a Fusaro, compriamo il maschio e femmina cioè sulla 87, quindi puoi usare l'MB più 4 sia sulla 87 che col Mubico, capito Antonio? Ed è già pronto. E poi mandiamo l'altro a fare la modifica. Sì, Caparoce. Ma io il Mubico te lo posso anche portare adesso se vuoi, Claudi. Se non ti disturbo lo sto staccando e te lo porto adesso. Mi serve l'MB più 4, mi serve l'MB più 4 per fare la connessione al Mubico, capito? Quindi devi modulare con il microfono normale. Lo facciamo domani sera, Antonio, non ti preoccupare, andiamo assieme, venga a prendere, andiamo assieme, ragazzino. Glielo lasciamo, io penso che già te lo faccia subito, non ci sono problemi. Massimiliano, come hai messo Gavino? Dove è Massimiliano? Ma non c'è più. Massimiliano! Forse si è spostato, dai. Forse si è spostato, ma mi sa che gira dietro, vedo anche questo microfono che mi ha dato a Gavino e lo facciamo fare da lui direttamente. E così va più pazienza, ecco. Sopra lì. Ehi, a positivo, non so, non vedo che cosa gli hai detto. Gira questo microfono mi ha dato tu, lo diamo a Gavino che c'ha più pazienza, lui lo facciamo fare attaccare, collegare da Gavino, le do lo spinotto, già ce l'ho qua, è tutto quanto, e poi lo diamo a Gavino e lo facciamo collegare da lui. Che è quello, Gigi, intanto tu mi pare che intanto non hai poco, peggio di me. Intanto i due fili che ci sono staccati sono uno della batteria, sicuramente il rosso e il giallo è della piastra di amplificazione, ma poi lui col testa già lo vede. Non ci stanno problemi, se no si ha problemi dal punto mio, no, non ci stanno, non c'è nessuna difficoltà, dai Gigi, capito? Non c'è bisogno che le porti le MB più 4 se ha già le connessioni fatte. circa le BB più 4 al mobico, e la 87 si manda a modificare. Ma al limite per una giornata, se c'hai qualche un microfono normale, non sarà la fine del mondo, glielo lasci la mattina, te lo riprendi la sera, le lasci le BB più 4 per mobico e te le fa uguali. Capito? Però non sono sicuro se l'87 di cosa, di Falchetto, mi sembra che ce l'ha a incrocio le connessioni, capito? Mi sembra che non sono neanche Mitra quelle connessioni che c'erano con l'87, mi sembra che sono a incrocio. Ah, questo io non so. Gigino, se Gigino è andato a fare la pipì. Questo è un problema allora, questo è un problema, perché se le connessioni... Allora deve fare uguale la 87, allora bisogna portare... Allora bisogna portare le MB più 4. Allora quelle del mobico dobbiamo fare uguale la 87, quindi perché tu Anto stai usando la 87 con la MB più 4, giusto? No, negativo. Io sto usando la 87 col microfono palmare. La MB più 4 dove cacchio l'hai messo? MB più 5, non più 4, ma più 5 è qua nel mobico. Con l'adattatore, però. Ma se tu attacchi le MB più 5, non più 4, MB più 5, allora 87 funziona? Se cambio lo spinotto sì. No, senza l'adattatore, lascia perdere l'adattatore. Se tu diretto prendi le MB più 5 e l'attacchi alla 87 funziona? Negativo, perché c'è uno spinotto a 5 e non posso adattarlo al mobico, mi ha capito Claudio? No, non ho capito un cazzo, no, ci siamo. Allora, l'MB più 5 tuo, io l'ho visto, c'ha l'attacco a 4, giusto? A 4, lascia perdere il mobico a 4. L'MB più 5, quando io ti sento con l'amplificato, dove lo stai usando? Sulla 87 o sul mobico? MB più 5 è su Mobicon, capito? Ho messo lo spinotto a 5 o sì che sia al Mobicon, l'MB più 5 al Mobicon e io con questo dall'87 è un palmare, tutto qua. Mazzo del casino, quindi praticamente bisogna portare sia il microfono e ora bisogna portare il microfono al Mobicon. Tutto bisogna portarlo, perché io voglio che tu con un microfono usi due radio, quindi o si inverte la femmina, quindi il connettore del baracchino della 87 a quello del mobico, devono funzionare con un microfono due radio, capito? Oppure il mobico lo usi con l'MB più 4 e lo usi così con l'eco e quando non vuoi l'eco lo chiudi come fa Gigino. Devi decidere tu. Io comunque cammino, quando ci andiamo le dico che un microfono tu devi usare due baracchini senza l'adattatore. Falla, ascolta, personale, buonasera a tutti. Claudio e a Massimiliano, buonasera, chi ha salutato? Dimmi Massimiliano. Allora, tu fai così, tanto quando lui porta l'87 a modificare, Roberto glielo fa con l'attacchi Midland, capito? Perché tanto lui deve usare un CTE, un Midland o un microfono così. Quindi quando tu porti l'87 a modificare, tanto già Roberto le fa gli attacchi Midland. L'MB più 5 che c'ha lui lo porta insieme al mobico e deve comprare lo spinotto per il baracchino a 4 e lo spinotto del microfono a 4 e lo fai fare le stesse connessioni Midland come ho fatto io, capito? Poi una volta che ha modificato l'87, l'MB più 5 va bene sia nel mobico che sia nell'87, perché tanto Roberto lo fa con l'attacco Midland. Ah, positivo Massimiliano, allora facciamo così, dai, faccio così. Allora faccio così, tanto Gavino le connessioni Midland ce le ha segnate, no? Ehi, non c'è problemi per le connessioni. Allora, va bene, dai. Allora ci andiamo domani sera. pensavo, in un mondo dove ci sono standard per tutti i tipi di spinotti, per tutti i tipi di apparecchi di vario tipo, non si sono mai degnati di fare uno standard unico per i microfoni degli apparati CB. Ciao Marco, buonasera Carlo Sparviero, è stato sempre un indicato, ma in linea di massima le connessioni a 4 per noi sono facili perché o inverti il rosso col nero o il nero col rosso. Il problema è che il Mobicon che c'ha Forchetto ha quello spinotto si punte e quindi è un casino. Va bene, allora le cambiamo direttamente il connettore maschio e femmina, quindi quello della radio che riceve il connettore microfonico si mette a 4, si elimina quello e si elimina allo stesso tempo anche lo spinotto del microfono, capito? Giusto per essere più regolare, anche perché quello secondo le caratteristiche si stacca, invece quello là c'ha la ghiera, lo inviti, io ci do tutti così, anzi bugia. Ce n'è uno, il Sears, che praticamente ha 6 punte come quello del Mobicon, e quello lo stesso devo portare da Gavino a farlo fare anche io, quindi non ci stanno problemi. Domani sera ci avviciniamo e intanto sentiamo cosa ci dice Gavino e iniziamo a fargli fare questo, poi mettiamo in movimento anche la 87 e chiudiamo questo capitolo. Già ci penso io, non ti preoccupare. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, poi mi direi da dove stai modulando, il segnale tuo è 59+20, la radio è ottima, non ci stanno problemi. Il cambio per Gigi Vulcano e poi fai girare avanti Gigi. È una cosa per Claudia, anche per Marco, perché il Mobicon cambia canale dal microfono e questi due fili in più sono proprio per il microfono che cambia canale, ecco perché c'è. Una volta che tu lo fai, le togli quello nero, questo lavoro qua non puoi più fare su quell'apparato, devi cambiare il microfono normale dal microfono. In più queste 6 punte in più sono proprio per cambiare canali, che c'ha i pulsantini per cambiare il canale, capito? Comunque ci sono vendendo, anche a Marubi ci sono quei microfoni per il Mobicon, per la paghetta, questi paratini qua, la va bene, non mangiare delle... Ehi, Alisa, ti interrompo perché... Allora, il mio Mobicon non ha canali che si cambiano dal microfono, è proprio lo spinotto a 5 punte, non a 6. Il suo microfono originale non cambia i canali dal microfono, capito? Li cambi tu tranquillamente. Io l'ho fatto fare per comodità, me l'ha fatto l'altro giorno, l'ho ritirato l'altro giorno e me l'ho fatto fare a tachometro, così io ho tutti i microfoni e tutti i paracchini che sono qua sono tutti a tachometro, così non sbaglio, posso usare qualsiasi tipo di microfono, capito? Comunque già si può fare. Ok, ciao Marco, buonasera, non so dove ti trovi modulando, il tuo rapporto di segnale 7 e la radio 5, avanti. Ok, ciao anche a te, io sono in questo momento a Ottava, barra mobile, direzione Rotamona. Positivo, dai. Adesso ho aumentato un pochino, dai, sei in off. Ok, va benissimo, la radio non è perfettamente squillante, comunque 5 comprensibile, va benissimo. Avanti Falchetto, io detto questo, vi saluto che iniziamo a farci docetta qua. Un saluto e un abbraccio a tutti, dai, ci sentiamo alla Copper, speriamo che vinca. Kappa, dai. Saluto di Massimiliano, dai, buona passeggiata, buon tutto e non ci stanno problemi, dai. E comunque dai, io saluto anche l'amico entrato in direzione lì Platamona, ben ascoltato, ben tutto. E lascio il mic a Claudio, poi farà girare per la ruota, dai, vai. Anche io dopo devo salire dove tu sei. Se ti va bene, se lo vuoi lasciare a me, tanto io dopo mi devo vedere con Gavino. se me lo vuoi lasciare per non aspettare domani sera, io già domani glielo posso dare e lui già inizia a smontarsi il tutto. Se vuoi, se no come vuoi tu. Siamo rimasti d'accordo con Claudio, là, non ci stanno problemi, la sede. No, ciao ciao a tutti. Non ci possiamo lamentare, dai. Vai Claudetto. papà che ti ascolto alla grande. Gianni, io ti ascolto, dai, già va bene. E positivo, Gianni, dai. Buono proseguimento di giornata, buon tutto, dai. Marchetto ti saluta. Vai, grazie. Cappa di positivo, Gianni Dinamite, dai. Un saluto, un abbraccio, buon fine domenica e un buon rientro al QTH a base. Dammi bene. Arrivi magnificamente bene, anche per me 5-5 senza problemi, arrivi meglio a Porto Maggiore che è la casa tua, non ci stanno problemi. Avanti Marco, se ci sei ancora. Ok, sono arrivato alla rotonda adesso. Fai una prova Claudio, vieni avanti di assegnare. Marco, vai, io sono qua alla punta di Scala di Ciocca, punta di Scala di Ciocca a 40 metri di altezza. Sto andando con un ala 68S modificato, io adesso sono 2,5 e 2,5 da più. È un 48 e non è un 68, è un 48. Ma quando modulo io 4 e 4 fanno 8 e... vedi un po'... Ma non è che hai bruciato il limite della radio perché non sento più a Marco. Attenzione Marco, Cecilia, la rotonda di Platamona. Ascolti Sparviero, l'originale della torre di controllo. Tutti gli aerei sono in volo. Sì, già ti ascolto, anche me non è arrivata. Non so come definire, volevo facciare la stessa cosa che ho hai detto che glielo do. E il tempo non si è ancora vestito Marco e... No, peggio, ho messo di distrutto. L'ha detto? Oh, c'era ancora distrutto, ha detto. No, no, questo è spruzzo, spruzzo proprio. Ascolto. Non incaricare i peli, non incaricare i peli, che non è il tempo, adesso è il tempo delle sciocine, delle pesche, capito Marco? Dai garapeli. Salto il tempo del ubirigocco. Cavolo Giovanni, un attimo di bianco da parte mia, riprendo subito ragazzoni. Che cosa hai detto Marco? Un controllo per Sassari. Poi tu un controllo, Santiago Nove, sei qua a Sassari, zona carbonati alta. No, vabbè, qua lo smettere a lente qui non cazzo. E decidi quello lì. Quindi tu qua arrivi 5, ma non è reale, non è a lancetta questo. No, quelli a lente non servono a niente, questo è a smittere abbastanza grande, ti dico che è anche preciso, segnale 9 per te, vai Gigino. Positivo, dai. No, a lente non lo so come funzioni comunque, dai. Comunque anche a me sta arrivando un segnale quasi di 9 qua, Sta arrivando quasi 9, Marco. Non lo so io, però tu mi stai arrivando quasi 9. Anche tu 9 qua, la radio molto forte. Ehi, già prende bene, nonostante c'è un'antenna così andante. Se posso intervenire a lente, proprio non si accendono le lente qua dalla mia postazione. Marco, dalla mia postazione le lenti proprio sono muti, proprio nada di nada, tutto bianco trasparente. Greco, Greco, Claudio, sono il vulcanino, prima mi hai visto anche in garage, sono sempre io, su da a casa di nonno Luigi. Oi, vulcanino, un abbraccio grande, un bacio grande da Claudio Sparviero, tutto bene vulcanino? Sì, mi chiamano Alessandro, anche vulcanino, e boh. Bravo, bravo, bravo, tu sì che sei bravo. Però adesso non lo dici, che sono bravo. tutto non ci stanno problemi. Sono in seconda, non in terza, perché io non ho 7 anni, nemmeno 8 anni, io ho 6 anni e mezzo. Yeah. che ruvida la testa. Marco, ci sei Marco, come va la pera lì, come vanno le pere? Ha detto nonno, c'è il topolino, è andato. È andato sotto la trave e è caduto, così è. Sigi non vuol già. Topolino è andato. Infatti, il topolino è andato al primo centro e è caduto dalla trave. Va bene, dai, io faccio la pipì del bianco e ci porto giù a questo quattro zampe che sta rompendo le scatole, eh. A più dopo, dai, a più dopo. Ciao, cari. Ciao Volcanino e ciao anche a Gigino, dai. A più dopo se coincide che io scendo queste quattro zampe che stanno volgendo, dai. Cari, a più dopo se coincide, dai. Ciao, ciao. Nonno. Io ho sentito, vai. Ciao Tullio, Tullio, mi ascolti, Tullio. Dai, si è addressato, mi ricordo. Anche Tullio, Tullio, vai, porco, non vai. Deve fare i suoi bisognini lui, altrimenti è tribula. Dai, ci sentiamo dopo, io. Io sono qua, tu, non c'è problema. Aspetta un attimino, Vulcanino, devo chiamare a Marco. Marco! Dove sei? Sempre lì a Portamona. Adesso sono da dove è andato? Non chiama. Ah, ho capito dalla tua parte, dai. Io va bene, no? Non ci sono problemi, ti ascolto sempre magnificamente bene. Assolutamente niente, io continuo a modulare qua nel canale 45. come, quando, niente, come, quando piace a me. E come soprattutto piace a me, poi se a qualcuno non piace spegnermi anch'io. Non devo dare conto più a nessuno, ho dato anche troppo conto in 40 anni in radio, adesso mi sono stufato. Lo so, però visto che non è Roma Roma, perché io prima di rientrare ho fatto ascolto e anche con una modula parte, non so se sia il 20 in aereo, c'erano sempre contatti, e da me non arrivavano un po'. No, io su 20 non c'ero, io sono alle 5 qua sul canale 45, non ero io sul canale 20, nel modo più assoluto. Io non mi sono mosso dal canale 45, non so neanche chi stessimo rubando gli altri canali perché non sento assolutamente nessuno. Magari qualcuno a me mi sente, ma io qua a Carbonate non sento assolutamente nessuno, guarda. C'è un silenzio e no, non viene bene a dirlo. Thank you. 42 525. Io parlo anche lì, non ci sono problemi. Ma tu mi conosci, a me sai chi sono. Tramite ponte ti arriva, noi lì lavoriamo tramite ponte, capito? conoscono lo stesso, cioè ti conoscono tutti, dice, boh, dice questo che ho chiesto, dice conoscono, ti conoscono tutti. Vabbè, chiede a Vittorio Giove, vabbè, Vittorio Giove mi conosce, e giustamente Walter mi conosce lo stesso, capito, e niente. E molti mi conoscono così, dai, mi conoscono perché giro un po', viaggio un po', capito, e a volte entrano, conoscono il fisio, non lo conosco di persona, no, è un fisio lancia, uno è fisio lancia, che è di villaggio, l'altro di Marrubio, è fisio, che non un vedente, quello lì è fisio, scusate, mi sfugge il nome, il nomignolo che c'ha, è fisio, non mi ricordo il nomignolo adesso, quello stesso è un non vedente, però parla molto in radio, capito? Però è una persona non vedente. Ehi, ehi, è non vedente, c'è anche il poverino, poverino Gennargentu, dai, che l'abbiamo a Torres, si è trasferito, mi pare, a Mores. A Mores o a Bonanno, o adesso non mi ricordo, se ti ricordi parlava molti anni fa, o comincia a dire c'era di tutto, sia radioattori che roba civile in quei paesi là. Quando mi ha conosciuto Claudio, mi ha conosciuto altri qua in stazione fissa, e fammelo vedere così cos'ha e cos'ha, ecco che un po' mi ho riempito un po' a tutti di questi apparati, compreso quello che c'è Claudio, l'ho fatto avere io stesso, e tanti altri che ce l'hanno qua in zona di Sassari, e sono tutti da... Il danno l'ho fatto tutto io, capito? Con questi apparati, sono stato io a fare questo danno qua, capito? Ah, ma li fai proprio tu oppure li da fuori? No, li faccio fare fuori, dai, li conosco. Tu hai fatto nominativo prima, invece io di quelle persone, non, io c'ho proprio, le conosco di persona le persone che fanno questi lavori, capito? Quelli fatti a standard non le prendo mai io, capito? Per esempio quello che sta modulando Claudio è stato fatto nel 2004, quello lì è stato fatto in Sicilia e l'ha fatto Piero Lumacone. Quando tu vai in zona dell'isola lì, vai nella Sicilia, in Sicilia che fanno bene, i paracchini ce ne sono due, c'è Danubio e Lumacone, poi ce n'è un sacco che li fanno, però quelli giusti che fanno bene, che fanno dei bei lavori sono Piero Lumacone e Danubio che conosco di persona, capito? Poi vai a Napoli, c'è Nicola Pirata, c'è Sabattino che ha fatto questo qua, che conosco tutti di persona, capito? Perché sono un po' appassionato io, capito? Poi c'è Nicola, poi c'è Carmelo Maciste, c'è Pietro del Castolano, c'è Dario, sono tutti gente che conosco di cose che fanno baracchini, che li preparano, capito? Però che li conosco di persona. Poi ce n'è uno in Sardegna nell'ingrediente, Roberto, che è bravissimo anche lui, che fa baracchini qua in Sardegna, ce n'è uno. Che li fa bene, dai, capito? Gigi Volcano. Ok, quindi due attacchi a quattro maschi, uno nelle BBP 5, uno nel microfono normale del Mobico e la femmina nel baracchino, ok? No, quel microfono normale del Mobico non l'ho, c'ho solo l'MBP 5 e tutto qua. Mi sto dando il microfono dell'MBP 5 e il Mobico, il microfono normale purtroppo non ce l'ho più. A me non ce l'abbiamo un microfono normale da mettere la tappa 4. Un microfono normale? Ehi, un microfono normale, da mettere la tappa 4. Anche quello del, non lo so, un microfono normale qualsiasi da mettere la tappa 4 per il Mobico. No, microfono normale ce l'ho, ma è attaccato qua la... Lui è abituato a comportarsi in questa maniera. fatti e 3 fatti e mezzo vi sto parlando. Credo, e questo c'ha tutte le bandiere stelle dell'altro quarto ed è così, fa segni e poi l'accendi ed è così. Però c'è lo smitter, questo, vabbè, questo è più grandetto, dai, non è piccolino, non è, è grande come, come apparatino, più grande di un mitra, di un 48, molto più grande, quasi come, non ti posso dire, un Ninco, più o meno la grandezza è così. C'è un alimentatore anche e poi c'era, aspetta, Rosmet, non so, un maracchio piccolo, ti ricordi come maracchio piccolo Angelino? Una cosa del genere, così piccolo, eh. Ah, dove l'avevo fatto il cuore, e poi ti farò sapere. Non ho capito, aspetta, c'è un 8001, il modello nuovo, ti ricordi il modello che avevo preso ultimamente io? Quel modello lì, non l'altro modello vecchio, il modello quello a 10 bande, capito? Ma è qui a Sassari o dov'è? È qua a Sassari, mi sa che è il modello vecchio, insomma, non mi ricordo, va. Quando ti mandavo a vedere, ma tu un giorno saliamo, questo amico, e andiamo a vedere questo... questi apparecchi. Luca. Marco, sono Platano, ti volevo chiedere appunto, se un 8001 vecchio va bene, se l'8001S, ci stanno lamentando su vari forum che è un carraggio, è come la storia del 48 volt BSX che stanno vari problemi, se è vecchio va bene. E tu ti sbagli, tu ti sbagli caro mio, ti stai sbagliando di brutto, ti sbagli di brutto, l'8001 bisogna vedere a chi lo dà in mano a fare, capito Marco? Vanne tranquillo, te lo sta dicendo uno che l'8001 ce l'ha già la bellezza di 3 anni attaccato in camion, il modello nuovo, e non uno, due, modello nuovo, capito? Due, non uno, due. Vanne tranquillo, e questo te lo posso garantire io, e non ce l'ho io solo, ce l'ha Tommaso Civa, che ci modula, ce l'abbiamo in tanti, questo 8001, eppure non ce n'è uno che ha dato problemi. Sai chi ha dato problemi? Ultimamente il Magno, l'SNOF, ma l'8001, allora sai perché si lamentano? Ti spiego, perché non riescono a modificarle, capito? Non riescono a modificarle e gli esce male, ecco perché si lamentano. Però se uno è bravo, gli sa mettere le mani sopra, tipo Roberto Rapido o Carmelo Maciste, capito? Non ce ne sono problemi, capito? Su quell'8001, vale tranquillo Marco, io due ne avevo, uno l'ho venduto da poco. E quello che c'ho sotto in camion ce l'ho già la bellezza di tre anni buono sempre, e va di brutto, e sempre acceso la mattina alle 4 da quando parto. Ma io appunto ho avuto una conferma allora a te, perché molti sul forum si lamentano, ma forse si lamentano, sai perché? Se non sbaglio hanno aggiunto un bel DSMD dentro, forse non riescono a maneggiarli, a modificarli come è facile modificare gli altri. Giusto, bravo, perché io ne ho uno, quello che c'ho in camion, non sono riusciti a farlo, l'hanno fatto, se ce l'avevano 2 anni, addirittura, e ti dico che ce l'aveva in mano quello lì, ce l'aveva da Nubio, è uno dei bravi, però sul 48, sull'8001, c'è quello di Cagliari, ha detto, no, il nuovo, non si può, no, quello è il modello vecchio, quello perché così e cos'ha. Quello che c'ho in camion io, l'ho avuto per una fesseria io, quel coso lì, perché non andava, perché non ci sono riusciti a farlo su, non ci sono riusciti. Ma siccome c'era questo amico, Carmelo Maciste, è un amicaccio su della zona di Milano, che fa questi apparati qua, allora io ho parlato con Roberto, rapido, Roberto dice, io questo nuovo, dice solo che c'ha questi problemi, allora abbiamo chiamato Carmelo per non mandarlo su da Carmelo, l'ha detto per telefono, se quello era un tecnico, lo capiva, non si sarebbe dovuto fare questo lavoro, quest'altro lavoro e quest'altro lavoretto. E lei vede che l'apparato va bene, tu guarda quello che c'è in camion io, ce l'ho già a roba di 3 anni, l'ho preso per una, me l'ha dato Pinocchetto il mono, perché ci aveva preso e schiacciato quel baracchino lì, nuovo di pacca, hai fatto fare, fatto comprato da Fusà, la CBC a Terra Secca, l'ha comprato lì, Pinocchetto l'ha mandato in Sicilia a fare da Danubio, e voleva buttarlo nel modezzaio, io l'ho portato da Roberto e Roberto me l'ha ripreso e mi ha fatto un capolavoro. E non solo, ne ho preso un altro da Luca, di questo modello nuovo, mi lo può confermare Luca, dai, di cosa, di come si chiama, di... ma... dell'altro di uno di Sassari che conoscerai, che poi me l'ha fatto avere tramite Luca, dai. E l'ho modificato sempre, e va alla grande, c'era Costanzo, un altro amico mio, gliel'ho venduto da poco. ecco perché lo fanno, capito? Perdo soldi, lo riprendo a chi lo vuole, me ne prendo un altro. D'accordo. Avanti Luca. Adesso non c'è importante, comunque, non lo so qui se è modello vecchio, modello nuovo. Comunque l'ha comprato nel 2009, mi sembra. Non so se sia modello vecchio, ma c'è modello nuovo. Comunque appena lo sento, vado qua. A parte volevo telefonare. Perché metto telefono, sono identico, appena lo chiamo, andiamo a vedere questa roba qua, poi ti farò sapere. Poi però vado a ricavare, c'è anche l'antenna, tutto il capo, con sottile ovviamente. Vediamo, dai. Positivo, positivo, no, va bene il modello nuovo, perché il modello vecchio quando nasce non è omologato, è già arriva a 15 watt di suo, tutti i watt, però arriva a un certo punto e si blocca, no. Non c'ha 10 watt, poi non le fa niente a Gigi, e dopo lo passa, e gli altri canali invece poi lo no, qua no, qua, Gigi e fa già 10 watt, capito? Facciamo un capisco cosa sta dicendo. Dire i fatti, ci sono delle cose da fare, delle modifichette che loro fanno, mettono, aggiungono cose, non lo so io cosa faccia, e va bene perché il 2001 va bene, non prende colpi ed è una bella radio, te lo sto dicendo perché io ce l'ho, tu me la conosci, Claudio la conosce, Luca la conosce, ce l'ho già forse dal 2008 io quella in camion e non la cambio con nessuno, a dire la verità, l'8001 è il modello nuovo. Sì, sì, lui però purtroppo, trovo il problema, ma è una portante, è un po' che ti dà fastidio, c'è qualcuno che si diverte, lo siamo già a fare, no? Allora per il coglione le persone che stanno parlando tranquillamente, ma se non gli piace cambia il canale, insomma non è che o per lo picca in culo la mamma, o la muove se ce l'ha. Purtroppo dai, tre volte sto uscendo io perché con tre volte adesso non mi dà fastidio quella portante, dà fastidio a Marco, ma a me in questo momento non mi dà più fastidio. Guarda che qua non si copre Gigi, quindi non è in zona alta, deve essere in zona bassa lì della zona di Luca, poi sicuramente non lo so, comunque qua non si copre. Guardate neanche là, tu passi tranquillamente, prova lui. Vedrai che l'abbia sotto casa tua. No, non c'è la porta, ora non c'è che la passi adesso, Ma quando ti arrivo, Luca? No, tu la passi, qua. Sai, quando ti arrivo a te la portata, e qua lui non mi fa niente, ma non mi fa niente, però non mi fa niente. Se io passo lì e lui ce la passa lì, quando ti arrivo a te? Ma sono brutte figure, te l'ho detto l'altro giorno. Ma è solo brutte figure. Come tu sei 9... Ah, portate 9,20 circa, eh. Ma anche 9... tu sei 9,30, notte 9,30, qua. Luigi lo stesso, già è alto. Non lo passa adesso lui, adesso lo passi. Prima no, prima di Santiago Rope. Si oltre 9,20. È positivo, positivo, ma perché c'erano 3 watt, neanche 3 watt di baracchino. Per forza. Ma no, dare, mi dispiace che dà fastidio a Marco che non l'ascoltate voi, solo quello mi dà fastidio, poi del resto, glielo ho detto già dall'altro giorno, non ci fa un baffo a noi questa portante. Qua arriva Santiago Zero. Beh, riprendo io e vado a mangiare, Gigi. Più retta le latte, peggio è qua, non ti colica manco il pelo, io faccio finta Roma che non va bene, guarda, e arriva Santiago Roma e quindi... Se 9.30, Luca 9.40, con questo baracchino, perciò mi sembra che ci sia Pinocchio. di controllo Santiago. Qua arrivava Santiago 0. Passiamo. 45. Vediamo, poi non ho mangiato già pranzo. non ti do il bollino, dai, il bollino non te lo do. Mi dispiace, però sai che io sono sincero. No, non mi piace, l'eco non lo fa girare come deve girare. Questa non è quell'antenna grande, questa è quell'antenna piccola. È difesa la radio, non c'è niente da fare, dai. È una radio, sembra una radio normale, capisci? Una radio normale sembra. Fermare anche Luca, me. Luca ti ascolta, a te Luca cosa ne pensi tu? E adesso abbiamo saltato il tutto. Sta girando. Comunque poco ci sento un po' complesso di modulazione. Adesso mi è staccato. Non so, mi è staccato, comunque sei più chiaro. Perché quell'aggeggio era al massimo, dai, bisogna metterlo un pochino più basso, dai, se no va male. Adesso sta girando bene, ma si vedeva prima, no? Non c'era eco, si mangiava la radio, la satura, no. Adesso va meglio, ma si vedeva, adesso va meglio. Stanno dicendo lui, perché l'abbiamo messo al massimo, capito? Adesso ci fermiamo e passiamo. Delta, ricordi il vulcano di Sardegna, Cristino Delta. Delta si chiama. Cristino Delta, ma ascolti Gigi Vulcano di Sardegna, non ascolti a Gigi Vulcano, Cristino Delta. Ma Luca ancora c'è Gigi, Luca, chiamami al telefono un attimo, al telefono di casa. Aspetta, non prendo. Scusate, io sto mangiando, riprendi Gigi. Attento, Delta, Delta, si ascolti, Sassari. Oh, mi parla mobile poi. Cambio. No, Delta, ascolti il vulcano di Sardegna, Cristino Delta. Oh, vulcano, vedi un po'. Qua abbiamo già passato il tutto, basso. Viene Massimiliano, adesso va bene. E dai, così bisogna lasciarlo che gira bene, cambio. Guardi, respiro Delta, senti dal nord che ti chiama, bacio. Avanti, respiro Delta, senti la Sardegna, cambio. Nada. Ma... Poi l'ho squarciato, non se ne è accorto. Chiami. Ma dove è questo? Mia. In Polonia, Ora, ah, no, che non è in Italia. In Polonia, oggi. Quante volte ha questo? Non so, vado già a Cristino Delta. Cristino Delta, non senti un vulcano in Sardegna, Cristino. Non ci sente proprio. Attento, Cristino Delta, se ascolti Sassari, cambio. A me mi ascolta Sassari qua. Mi ascolti Sassari, io, Marco. Se ascolto te, sì. Vabbè. È casino, mamma mia, guidare e tenere il mic. Come se c'era qualche gara di coso qua, di relico, ci sono delle macchine davanti. Senti, ora io faccio un po' di bianco e vado a vedere un po' come si mette la cera qua. Io sto tornando a Sassari, sono un'ottava. Camparoggio, infatti provo a vedere questi segnali, mi sembrava più alto adesso. 1, 2, 3. Andiamo a fondo scala. Dai, bianco per me, dai. K, buona cena, anche da parte nostra, che io sono a dieta. Ma forse sono a dieta pure io oggi, perché ti ho detto non sento odore di cucinato. Oggi mi sa che ti tocca pane e acqua. Domani a mezzodì fare calcio e l'altro. Ciao Volcano, se mi stai ascoltando ti saluto. Un abbraccio, una stretta di paletta, buon carichetto, ci sentiamo, Bulldozer ti ha salutato, gatto. Semiria, ciao, ciao anche a te Marco, dai. Ti hanno lasciato acceso, ma vado a vedere un po' in cucina cosa sta succedendo. K, alle prossime. Ciao Marco, dai, se mi stai ascoltando qua, ingresso Sassari da parte mia, ci sentiamo, dai, gatto. Sento un po' basso il chiodo di tutti. Dove ti trovi? Sono appena detto, ingresso Sassari qua. K ricevuto. Ciao, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, tutto alle prossime. Uè. Archetto. Ciao, ciao, ciao.